1, 2, 3, prova, cambio. Prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ora, ora, ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Attenzione, canale 10, cambio. Ora. Ora. Attenzione, canale 10. Attento, Luca Flipper, ci sei, cambio. Ora, ora, ora, ora. E avanti, però tu sei a pigliarla. Hola. Hola. E chi è? Chi è? Buonasera. Ok, qui da Sassari, Victor. Ti ascolto molto bene, il segnale è forte, chiaro. Va benissimo, tu Madonna, da Sassari sei. Ma siamo vicini allora. Cappasa. Beh, non proprio a Canega, comunque è un paio di chilometri da Canega, vai. Verso Monteoro. Siamo vicinissimi. Io sono un po' più in alto. Ma sei in macchina. E infatti è aumentato adesso un po' il segnale, ancora di più, 9.30. Sì, sì. No, abbiamo una bella modulazione, sai. Va benissimo. Perfetta, 5 più. Diciamo che non lo uso io. Come piace per il tanto adesso, capito? Sì, sì. Ma perché io l'eco c'ho, no? No, l'eco ce l'ho anch'io, ma non lo metto mai. Qualche volta che fa piacere, ma io neanche a me piace. Va bene, Victor, dai, io ti saluto, metto una cosette. Ecco i cine, magari ci vediamo dopo, ok? Va benissimo, buon proseguimento di serata. Ciao. Ciao, Victor, anche a te. Ti contraccambio il tuo rapporto, ci sono tutti un mese qua. Nella zona della mia portata di campagna. E sto uscendo dalla macchina, cioè, non sono in stazione qui. Sono in paraurti. Ok, dai. Dalla mia porta nel prossimo, ho fatto una ragione di andare a portare. Sta, io. Ecco, non sto presentando il tuo e prima, ma mi succede. Anche perché ti pensate in ok, ciao ancora, buonasera. Ciao, buon proseguimento. Ci sentiamo alla prossima. Se coincide come dicevi. Buon proseguimento ancora, dai.